Capitolo 13. I nuovi amici di Molly Gibson. Il tempo correva. Si era ormai alla metà di agosto. Qualunque cosa ci fosse da fare in casa doveva essere fatta immediatamente. Anzi, gli accordi che Mr. Gibson aveva stretto con Miss Browning non erano stati presi troppo presto. Lo Squire era venuto a sapere che Osborne sarebbe probabilmente tornato a casa per qualche giorno prima di andare all'estero, e benché la crescente vicinanza tra Roger e Molly non lo allarmasse minimamente, l'uomo era in preda al panico all'idea che l'erede potesse innamorarsi della figlia del medico ed era così ansioso che lei lasciasse la casa prima dell'arrivo di Osborne che sua moglie viveva costantemente nel terrore che questo desiderio si rendesse troppo palese agli occhi della loro ospite. Ogni ragazza di 17 anni o giù di lì, che sia seria e incline a eleggere a propria guida la prima persona che le presenti un nuovo, più ampio sistema di principi, diverso da quello da cui fino ad allora ella è stata inconsapevolmente guidata. Roger rappresentava per Molly questa sorta di guida. Lei cercava la sua opinione, la sua decisione, su quasi ogni argomento. Eppure il giovane aveva solo detto una o due cose e in un modo stringato che aveva conferito loro la forza di precetti, direttive stabili per la condotta di lei, e aveva dimostrato la naturale superiorità in saggezza e in conoscenze che di sicuro esiste tra un ragazzo di intelligenza non comune che ha ricevuto un'istruzione superiore e una ragazza ignorante di 17 anni, che però è dotata della capacità di comprensione. Tuttavia, sebbene i due fossero attratti l'uno verso l'altra in questa relazione così piacevole, entrambi immaginavano che una persona molto diversa avrebbe in futuro posseduto il loro cuore, il loro amore supremo e totale. Roger ambiva a trovare una donna magnifica a sua pari e sua imperatrice, bella, serena e saggia, pronta a dare consigli, come Geria. La lieve e titubante immaginazione fanciullesca di Molly indugiava sull'invisibile Osborne, che talora era un trovatore, tal'altra un cavaliere, come egli stesso scriveva nelle sue poesie. Qualcuno come Osborne, forse, anche se non proprio lui in persona, giacché la giovane si ritraeva dall'idea di dare forme concrete e un nome all'eroe che sarebbe stato. Lo Squire non sbagliava ad augurarsi che lei lasciasse la casa prima del ritorno di Osborne, se ciò di cui si preoccupava era la serenità mentale di Molly. Però, quando lei se ne andò, ne ebbe nostalgia. Era stato così bello averla lì ogni giorno, a svolgere tutti i deliziosi compiti che spettano a una figlia, a rallegrare i pasti che spesso erano di tête à tête tra lui e Roger, con le sue intelligenti e innocenti domande, il vivo interesse nelle loro conversazioni, le allegre risposte alle sue celie. Anche Roger avvertì la sua mancanza. A volte le sue osservazioni gli erano entrate in testa e avevano risvegliato in lui profonde riflessioni, nelle quali egli trovava diletto. In altre occasioni si era immaginato in grado di offrirle un reale aiuto quando lei ne aveva bisogno, interessandola a libri che trattavano di argomenti più alti rispetto alla solita narrativa e alla poesia che lei aveva letto fino a quel momento. Si sentiva come un insegnante affettuoso che di colpo era stato privato della sua allieva più promettente. Si domandava come sarebbe riuscita ad andare avanti senza di lui, se si sarebbe lasciata confondere e scoraggiare dai libri che le aveva prestato. E sarebbe andata d'accordo con la matrigna? Molly occupava fortemente i suoi pensieri nei primi giorni dopo la sua partenza. Mrs. Hamley la rimpianse ancora di più e più a lungo degli altri due. Nel suo cuore le aveva dato il posto di una figlia e ora le mancavano quelle dolci compagnie femminili, le gioiose carezze, le attenzioni sconfinate e anche proprio il bisogno di simpatia nel dolore che la ragazza aveva dimostrato così apertamente di quando in quando. Tutte queste cose l'avevano resa estremamente cara al tenero cuore di Mrs. Hamley. Anche Molly avvertì acutamente il cambiamento di atmosfera e ancora di più si rimproverava per il fatto di sentirlo. E non poteva giovarle quella sua capacità di percepire la finezza che le aveva fatto apprezzare l'intero tenore di vita a Hamley Hall. Dalle sue care vecchie amiche, le signorine Browning, era così vezzeggiata e coccolata da iniziare a vergognarsi dei toni alti e rosi della loro parlata, del provincialismo della loro pronuncia, della loro assenza di interesse per le cose, della loro avidità di dettagli a proposito delle persone. Le ponevano domande sulla sua futura matrigna a cui non sapeva mai come replicare. La lealtà verso il padre le impediva di rispondere sinceramente ed esaurientemente. Era sempre lieta quando le due iniziavano a interrogarla in merito ai possibili avvenimenti a Hamley Hall. Era stata così felice laggiù. Tutti le erano simpatici, persino i cani, e così tanto che le era facile rispondere. Non le seccava descrivere ogni cosa, persino la foggia degli abiti di Mrs. Hamley, quando era malata, nel vino che lo Squire beveva a pranzo. Anzi, parlare di queste cose le aiutava a ricordare il periodo più felice della sua vita. Ma una sera erano sedute insieme dopo il tè nel salottino al piano superiore che si affacciava su Hyde Street, mentre Molly discorreva dei vari piaceri di Hamley Hall, e in quel momento parlava proprio di tutte le conoscenze di Roger nel campo delle scienze naturali e di alcune curiosità che le aveva mostrato, venne fatta sobbalzare da queste parole. «Sembra che tu sia stata spesso in compagnia di Mr. Roger, Molly», disse Miss Browning, in un modo che intendeva trasmettere un'allusione molto più consistente alla sorella e nessun significato alla stessa Molly. Ma l'uomo si riprese dal morso. Fu il cane a morirne. Molly si accorse del tono enfatico di Miss Browning, sebbene da principio non riuscisse a comprenderne la causa. Invece Miss Phoebe era troppo presa dal suo lavoro a maglia sul tallone di una calza per prendere piena coscienza degli ammiccamenti e dei cenni della sorella. «Sì, è stato molto gentile con me», replicò Molly lentamente, meditando sui modi di Miss Browning e intenzionata a non dire altro finché non avesse capito a cosa attendeva quella domanda. «Oso dire che tornerai presto a Hamley Hall. Sai, lui non è il figlio maggiore, Phoebe. Non farmi venire il mal di testa con i tuoi eterni 18-19, ma fai attenzione alla conversazione. Molly ci sta raccontando di quanto spesso è stata in compagnia di Mr. Roger e quanto è stato gentile con lei. Ho sempre sentito dire che fosse un giovanotto molto simpatico, mia cara. Dici qualcosa in più su di lui. Adesso Phoebe sta attenta. In che modo è stato gentile con te, Molly?» «Oh, mi ha consigliato quali libri leggere e un giorno mi ha fatto osservare quante api vedevo». «Api, figliola? Cosa intendi? O tu e lui dovete essere impazziti?» «No, niente affatto. Esistono più di 200 specie di api in Inghilterra e lui voleva che io notassi la differenza fra le api e le mosche». «Miss Browning, non posso fare a meno di capire che cosa immaginate», protestò Molly, rossa come il fuoco. «È assolutamente sbagliato, è tutto un errore. Non dirò un'altra parola su Mr. Roger o su Hamley, se questo vi mette in testa delle idee così sciocche». «Ma quanta insolenza! Ecco una ragazzina che impartisce lezioni a gente più grande di lei. Idee sciocche proprio. Sembra che stiano nella tua testa. E lascia che ti dica, Molly, che sei troppo giovane per permettere alla tua testa di correre dietro agli innamorati». Molly era stata definita un paio di volte sfacciata e impertinente e senza dubbio un po' di insolenza se ne uscì fuori in quel momento. «Non ho mai detto quale fosse la sciocca idea, Miss Browning, non è vero, Miss Phoebe? Non vedete, cara Miss Phoebe, che è tutta una sua interpretazione e che questo stupido discorso sugli innamorati proviene solo dalla sua fantasia?» Molly avvampava di indignazione, ma per avere giustizia aveva fatto appello alla persona sbagliata. Miss Phoebe tentò di riportare la pace come fanno le personalità deboli che sono solite nascondere la spiacevole vista del dolore invece di tentare di guarirlo. «Di certo io non ne so nulla, mia cara. Mi sembra che ciò che Sally diceva fosse molto vero, decisamente verissimo. E penso, amor mio, che tu l'abbia fraintesa. O forse lei ha frainteso te. O forse sono io che sto fraintendendo tutto. Perciò è meglio che non ne parliamo più. Sorella mia, quale prezzo hai detto di dover pagare per il bigello del salotto di Mr. Gibson?» Miss Browning e Molly restarono così, irritate e arrabbiate l'una con l'altra per tutta la sera. Si augurarono la buonanotte superando le usuali formalità con la maggiore freddezza possibile. Molly salì nella sua cameretta, estremamente pulita e linda, e decorata con tessuti di patchwork delicato e minuto, le cortine del baldacchino, le tende delle finestre, il copriletto e un tavolino da toilette, laccato, ingombro di scatoline, con un piccolo specchio appeso sopra, che distorceva ogni viso che fosse così sventato da guardarlo. Da bambina, quella stanza era stata per lei incredibilmente raffinata e lussuosa, se paragonata con la propria spoglia rivestita di cotone bianco, e ora ci stava dormendo in qualità di ospite, e tutti i pittoreschi ornamenti che un tempo aveva occhieggiato con grande ammirazione mentre venivano avvolti con cura nella carta, erano ora a sua disposizione. Eppure, quanto poco meritava quell'ospitalità, quelle attenzioni. come era stata impertinente, come si sentiva turbata da quel momento. Mentre piangeva lacrime di pentimento e di giovanili tormenti, udì bussare piano alla porta. Molly aprì ed ecco Miss Browning, con una meravigliosa architettura di cuffia da notte e frugalmente abbigliata con una giacca di calicò a colori sopra una sottana bianca, scialba e corta. Temevo stessi dormendo, figliola, esordì, entrando e richiudendo la porta. Ma volevo dirti che oggi, per qualche motivo, ci siamo fatte torto e penso che forse sia stata colpa mia. È meglio che Febe non lo sappia, perché mi crede perfetta. Quando siamo solo noi due andiamo d'accordo più facilmente se una pensa che l'altra non possa sbagliare. Immagino di essere stata un po' contrariata. Non ne parleremo più, Molly, però andremo a dormire da amiche e lo saremo sempre, non è vero, bambina? Ora, dammi un bacio, non piangere, ti si gonfiano gli occhi e spegni bene la candela. Ho sbagliato. È stata colpa mia, disse Molly dandole un bacio. Basta sciocchezze, non contraddirmi. Dico che è stata colpa mia e non voglio sentire un'altra parola. Il giorno dopo, Molly accompagnò Miss Browning a vedere le migliorie in atto della casa di suo padre. Per lei non erano altro che cambiamenti sconcertanti. Il grigio pallido delle pareti in sala da pranzo, che armonizzava bene con il cremisi scuro delle tende damascate e che, quando ben ripulito, appariva lievemente opaco al posto di sporco. Era stato sostituito da una sfumatura alquanto brillante di rosa salmone. E le nuove tende erano di un verderame pallido che stava diventando una moda. Molto bello e luminoso, commentò Miss Browning, e nel fresco rinnovamento del loro affetto, Molly non se la sentì di contraddirla. Poteva solo sperare che il bigello verde e marrone spegnesse un po' quella luminosità e quella bellezza. C'erano impalcature qua, impalcature là e Betty che brontolavano ogni dove. Vieni su adesso, vediamo la camera del babbo. Ora dorme nella tua, in modo che la sua possa essere rinnovata. Molly poteva solo ricordare, in pochi lampi di chiarezza, di essere stata condotta in quella stanza per dire addio alla sua mamma morente. Poteva vedere i lini e la mussola bianca che circondavano quel viso pallido, esangue e triste, gli occhi grandi e desiderosi, che agognavano di sfiorare ancora una volta la figlioletta morbida e tiepida, che la donna era troppo debole per poter prendere in braccio, già vicina com'era all'incoscienza della morte. Molte volte, quando Molly era stata in quella camera dopo quel giorno doloroso, aveva rivisto con vividezza lo stesso viso pallido, esangue e triste posato sul cuscino e le linee del corpo sotto le coperte. E la ragazzina non aveva rifuggito quelle immagini, ma le serbava nel cuore, perché potessero mantenere per lei il ricordo delle sembianze della madre. I suoi occhi erano pieni di lacrime mentre seguiva Miss Browning per vedere il nuovo aspetto della stanza. Era cambiato quasi tutto: la posizione del letto e il colore dei mobili. Ora c'era un gran tavolo da toilette con uno specchio invece del sostituto che compariva prima, ovvero il ripiano di una cassettiera con sopra lo specchio appeso al muro, rivolto all'ingiù. Queste erano state le cose usate da sua madre nel corso della sua breve vita coniugale. Vedi, abbiamo dovuto risistemare tutto per una signora che ha trascorso tanto tempo nella residenza di una contessa, puntualizzò Miss Browning, ormai del tutto riconciliatasi con quel matrimonio grazie al piacevole compito di arredamento che le era stato assegnato di conseguenza. Cromer, il tappezziere, voleva convincermi a prendere un sofà e uno scrittoio. Questi uomini direbbero che qualunque cosa va di moda, pur di vendere. Ho detto: no, no, Cromer, le camere da letto sono fatte per dormirci e i salotti per passare il tempo seduti. Fate tutto secondo il suo esatto scopo e non tentate di ingannarmi con delle sciocchezze. Beh, mia madre ci avrebbe dato una bella strigliata se ci avesse scoperte nelle nostre camere da letto durante il giorno. Tenevamo gli abiti per uscire in uno stanzino al piano di sotto e c'era un bel posto ordinato per lavarsi le mani, che è molto più di quanto si possa aver bisogno durante la giornata. Riempire una camera di divani e di tavoli. Mai sentito niente del genere. Oltretutto, 100 sterline non dureranno per sempre. Non riuscirò a far niente per la tua stanza, Molly. Ne sono proprio contenta, disse lei. Quasi tutto quello che c'è dentro è ciò che apparteneva alla mamma quando è venuta a vivere con il prozio. Non vorrei cambiarla per niente al mondo. Ci sono affezionata. Bene, non c'è pericolo, ora che il denaro è finito. E a proposito, Molly, chi ti comprerà l'abito da damigella? Non lo so, rispose lei. Penso che sarò la damigella, ma nessuno ha parlato del mio vestito. Allora chiederò al tuo papà. No, per favore, in questo momento deve spendere così tanto denaro. Tra l'altro preferirei non andare alla cerimonia, se me lo permetteranno. Sciocchezze, bambina! Insomma, ne parlerà tutta la città. Devi andarci ben vestita per amor di tuo padre. Anche se non gliene aveva parlato, Mr. Gibson aveva pensato all'abito di Molly. Aveva incaricato la futura moglie di procurarsi il necessario e subito una sarta molto raffinata era arrivata dalla città per fare le prove di un abito, che era così semplice ed elegante insieme da incantare Molly all'istante. Quando fu spedito a casa, pronto per essere indossato, Molly fece una prova privata a beneficio di Miss Browning, che quasi sobbalzò nel guardarsi allo specchio e nel vedere com'era migliorato il suo aspetto. «Mi domando se sono carina», si chiese. «Penso quasi di sì, voglio dire, con questo tipo di abito è ovvio». Betty direbbe «Le belle piume fan belli gli uccelli». Quando scese con il suo abbigliamento da cerimonia e si presentò per l'ispezione con un timido rossore, fu accolta con espressioni ammirate. «Insomma, parola mia, non ti avrei riconosciuta». «Belle piume», pensò Molly, frenando la propria crescente vanità. «Sei proprio bellissima, non è vero, sorella?» disse Miss Phoebe. «Beh, mia cara, se fossi sempre ben vestita saresti più graziosa della tua cara mamma, che abbiamo sempre considerato così avvenente». «Non le somiglia affatto. Ricordi tuo padre? E il bianco fa sempre esaltare una carnagione brunita». «Ma non è bellissima?» insistette Miss Phoebe. «Beh, anche se lo è merito della provvidenza, non suo. Oltretutto, anche la sarta ha contribuito. Che bella mussolina indiana! Deve essere costato un occhio della testa!» Mr. Gibson e Molly si recarono ad Ashcombe la sera prima delle nozze, in una carrozza gialla di proprietà di Hollingford. Sarebbero stati ospiti di Mr. Preston, ovvero di Milord, alla Manor House. Questa Manor House era all'altezza del suo nome e Molly ne fu deliziata al primo sguardo. Era costruita in pietra, aveva molti abbaini e numerose finestre a più luci con colonnine divisorie ed era ammantata di edera della Virginia e di rose tardive. Molly non conosceva Mr. Preston, che era fermo sulla soglia a salutare suo padre. Assunse subito la posa eretta di una giovane signora e fu quella la prima volta in cui si trovò a cospetto di quel tipo di atteggiamento, un po' complimentoso, un po' civettuolo, che alcuni uomini ritengono necessario adottare con qualunque donna sotto i 25. Mr. Preston era molto avvenente, lo sapeva. Era un uomo dai colori chiari, i capelli e i favoriti castano dorato. Gli occhi grigi, mobili e ben fatti, con ciglia più scure dei capelli e una figura resa agile ed elastica dall'esercizio atletico in cui era celebre la sua eccellenza e che gli aveva consentito di essere ammesso in compagnie di livello molto più alto di quanto sarebbe stato titolato a frequentare. Era bravissimo a cricket, sparava così bene che ogni casa che desiderasse entrare negli annali per il bottino di caccia del 12 agosto del 1 settembre era lieta di averlo come ospite. Insegnava alle giovani donne a giocare a biliardo in un giorno di pioggia o partecipava al gioco con maggiore serietà quando gli era richiesto. Conosceva a memoria la metà delle opere teatrali che si recitavano in casa ed era impareggiabile nell'inventarsi all'istante charade e tableau. Aveva le sue ragioni personali per desiderare l'inizio di un flirt con Molly proprio in quel momento. Si era divertito così tanto con la vedova quando ella era appena giunta ad Ashcombe da ritenere che vederlo vicino al marito, meno raffinato, meno bello e di mezza età, avrebbe costituito per lui un contrasto troppo forte per essere gradito. Inoltre egli nutriva una forte passione per qualcun altro, qualcuno che sarebbe stato assente, e quella passione era necessario per lui nasconderla. Cosicché, insomma, egli aveva deciso, anche se la piccola Gibson, come la chiamava lui, fosse stata meno attraente di quanto fosse, di dedicarsi a lei per le successive 16 ore. Il loro anfitrione li condusse in un salotto rivestito a pannelli di legno, dove bruciava e scoppiettava il fuoco, e le tende cremisi chiudevano fuori il freddo e il giorno morente. Qui la tavola era stata apparecchiata per la cena. Tovaglie bianche come la neve, argento luccicante, bicchieri scintillanti, vino e un gran dolce autunnale posato sulla credenza. E tuttavia Mr. Preston continuò a scusarsi con Molly per la sciatteria della sua casa da scapolo e per le dimensioni ridotte della stanza, giacché la sala da pranzo grande era già stata occupata dalla governante in preparazione della colazione del giorno dopo. Poi egli suonò il campanello affinché una domestica mostrasse a Molly la sua camera. La giovane fu accompagnata in una stanza molto comoda, il fuoco nel camino, candele accese sul tavolo da toilette, tende di lana scura intorno al letto candido come la neve, capaci vasi di porcellana sparsi qua e là. «Questa è la camera di Lady Harriet, quando viene ad Ashcombe con Milord, il conte», spiegò la cameriera, risvegliando migliaia di scintille luminose con un colpo ben assestato a un ceppo che bruciava sotto la cenere. «Posso aiutarvi a vestirvi, signorina?» «Assisto sempre, sua signoria». Molly, ben consapevole di avere con sé solo l'abito di mussola bianca per la cerimonia, oltre a quello che aveva indossato, lasciò andare la buona donna e fu grata di restare da sola. «Cena?» la chiamavano. Insomma, erano quasi le 8 e i preparativi per dormire le sembravano un'attività più naturale che vestirsi a quell'ora della notte. Tutto il vestirsi che poté arrangiare fu infilare una rosa damaschina nella cintura del suo abito di tela grigia, visto che sul tavolo da toilette c'era un mazzolino di fiori autunnali assortiti. Provò anche l'effetto di un'altra rosa cremisi fra i capelli neri, proprio sopra l'orecchio. Era molto bella, ma troppo civettuola, così Molly la rimise a posto. I pannelli di quercia scura che rivestivano tutta la casa sembravano brillare nella luce calda. C'erano così tanti fuochi accesi nelle varie stanze nel salone e persino uno ai piedi delle scale. Mr. Preston doveva aver udito i suoi passi, perché le venne incontro in atrio e l'accompagnò in un salottino che, come le spiegò, era chiuso da un lato da porte a due battenti che mettevano nel salotto più vasto. La stanza in cui Molly entrò le ricordò un poco Hamley, tappezzeria di satin giallo risalente a 70 o 100 anni prima, conservata benissimo e pulita scrupolosamente. Grandi stipendiani, vasi di porcellana che fondevano profumi speziati e un fuoco divampante davanti al quale suo padre, vestito con gli abiti della mattina, stava serio e pensieroso come era stato per tutto il giorno. «Questa stanza è usata da Lady Harriet quando trascorre qui uno o due giorni in compagnia del conte», spiegò Mr. Preston. E Molly tentò di salvare suo padre mostrandosi disposta a rispondere personalmente. «Viene qui spesso?» «Non spesso, ma voglio pensare che le piaccia quando ci viene. Forse lo trovo un cambiamento gradevole rispetto alla vita più formale che conduce alle torri». «Direi che è una casa molto accogliente dove stare», commentò Molly, riferendosi all'atmosfera di calore e di comodità che la permeava. Ma con suo lieve sgomento, Mr. Preston sembrò interpretare quelle parole come un complimento rivolto a lui. «Temevo che una giovane signora come voi si accorgesse di tutti i difetti della casa di uno scapolo. Mi sono molto obbligato, Miss Gibson. Generalmente passo la maggior parte del mio tempo nella stanza dove andremo a cenare e ho una sorta di ufficio in cui tengo i libri e i documenti e ricevo chi viene in visita d'affari». Dunque andarono a cena. Molly trovò tutto ciò che fu servito delizioso e cucinato alla perfezione, ma le portate sembrarono non soddisfare Mr. Preston, che si scusò ripetutamente con i suoi ospiti per la pessima cottura di quel piatto o la mancanza di una certa salsa su quell'altro, parlando continuamente della gestione della casa di uno scapolo, e scapolo qui e scapolo là, finché Molly si spazientì a sentir dire quella parola. Il malumore del padre, che persisteva e lo rendeva molto silenzioso, la metteva a disagio, però voleva nasconderla Mr. Preston, perciò chiacchierò del più e del meno, tentando di ovviare al modo in cui il padrone di casa continuava a riferire ogni cosa a se stesso. Non sapeva quando fosse ora di lasciare i due gentiluomini, ma il padre le fece un cenno. Così Mr. Preston la condusse nel salotto giallo, scusandosi per il fatto di lasciarla sola. Invece lei si divertì tantissimo, sentendosi libera di aggirarsi qua e là e di esaminare tutte le curiosità contenute in quella stanza. Tra le altre cose c'era uno scrigno Luigi XV di legno prezioso, intagliato con deliziose miniature smaltate. Molly si avvicinò a una candela e stava scrutando intensamente quei volti quando il padre e Mr. Preston fecero il loro ingresso. Mr. Gibson sembrava ancora turbato e ansioso. Le si fece incontro e le diede dei colpetti sulla schiena, guardando ciò che guardava lei, per poi ritirarsi presso il fuoco nel silenzio. Mr. Preston le tolse di mano la candela e si gettò a capofitto nelle sue curiosità con un'aria di pronta galanteria. «Si dice che quella sia Mademoiselle de Saint-Quentin, una grande bellezza alla corte di Francia. Questa è Madame du Barry. Ritrovate in Madame de Saint-Quentin una somiglianza con qualcuno che conoscete?» Facendole questa domanda aveva un po' abbassato la voce. «No», rispose Molly, guardando ancora. «Non ho mai visto nessuno che avesse la metà della sua bellezza». Ma non notate la somiglianza negli occhi in particolare? Richiese lui con un po' di impazienza. Molly si sforzò, ma di nuovo non ebbe successo. Mi ricorda costantemente Miss Kirkpatrick. Davvero? Fece Molly con entusiasmo. Oh, ne sono felice. Io non l'ho mai vista, perciò è ovvio che non trovassi la somiglianza. Voi dunque la conoscete? Per favore, raccontatemi tutto di lei. Egli esitò un attimo prima di parlare. Sorrise brevemente, poi rispose. È molto bella, e questo si può capire quando dico che la miniatura non raggiunge la sua avvenenza. E poi? Continuate, vi prego. Cosa intendete con e poi? Oh, immagino sia molto intelligente e abbia tante qualità. Questo non era minimamente ciò che Molly voleva dire, ma era difficile mettere in parole la vaga vastità dei suoi interrogativi inespressi. È intelligente per natura e ha imparato i suoi talenti, ma è dotata di un tale fascino che uno si dimentica di cosa lei sia veramente nell'aureola che la circonda. Voi mi chiedete tutto ciò, Miss Gibson, e io rispondo sinceramente, altrimenti non potrei intrattenere una giovane donna tessendo entusiastiche lodi di un'altra. Non vedo perché no, ribatte Molly. E comunque, anche se non lo faceste in generale, penso dovreste farlo con me, perché forse non lo sapete, ma lei verrà a vivere con noi quando lascerà la scuola e abbiamo circa la stessa età. Perciò sarà quasi come avere una sorella. Verrà a vivere con voi, dite? Fece Mr. Preston, al quale la notizia giungeva nuova. E quando lascerà la scuola? Pensavo che avrebbe senz'altro partecipato al matrimonio, ma mi hanno detto che non ci sarà. Quando lascerà la scuola? Penso a Pasqua. Sapete che si trova a Bologna ed è un lungo viaggio per lei sola, altrimenti papà avrebbe desiderato tantissimo che fosse presente alle nozze. E sua madre l'ha impedito? Capisco. No, non è stata sua madre. È stata la direttrice della scuola francese che non l'ha ritenuto opportuno. Praticamente lo stesso. E tornerà? E verrà a vivere con voi dopo Pasqua? Credo di sì. È una persona seria o allegra? Mai molto seria, per quanto l'ho vista io. Frizzante sarebbe la parola giusta, penso. Le scrivete mai? Se lo fate, per favore, ricordatemi a lei e ditele che abbiamo parlato di lei, voi e io. Non le scrivo mai, replicò Molly bruscamente. Arrivò il tè, dopodiché andarono tutti a letto. Molly sentì l'esclamazione del padre in merito al fuoco della sua stanza e la risposta di Mr. Preston. Mi picco della mia viva passione per tutte le possibili comodità e anche della mia capacità di farne a meno se ce n'è bisogno. Le scorte di legname di Milor sono ampie e io mi concedo un fuoco nella mia camera per 9 mesi all'anno. Tuttavia potrei viaggiare in Islanda senza tremare per il freddo.